nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 11 luglio, il sole in regione sorto alle 5.27 tramonterà alle 20.58. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Nel suo recente libro Le piante immunizzate, il professor Ruggero Osler dell'Università di Udine ci spiega come in natura le piante, sempre più deboli e malaticce, siano capaci di sviluppare meccanismi di guarigione e trasmetterli addirittura alle generazioni future. Se saremo capaci di cogliere questi aspetti, potrà cambiare radicalmente il nostro intervento su molte coltivazioni. Ne parliamo con l'autore nel servizio di apertura. A seguire le reazioni al documento dell'Unione Europea che vorrebbe entro il 2030 il 25% di superficie agricola in biologico. Vendemmia meccanica o manuale, pregi e difetti delle due tecniche nella rubrica del vino, per passare poi alle opportunità che offre la pacciamatura in orto e la fortuna che hanno avuto i fagioli nella cucina popolare della regione. Per lo spazio della gastronomia, tutte le sfumature che si può dare agli spaghetti, aglio e olio. In chiusura, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo con una nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Ultimamente le piante non sono felici. Lo scrive il professor Ruggero Osler nel suo ultimo libro pubblicato grazie all'ERSA e all'Università di Udine, che si intitola Le piante immunizzate, dove spiega e dimostra come le piante che si stanno sempre più ammalando sono capaci di sì ammalarsi purtroppo, ma anche di guarire da sole, cosa che noi dobbiamo sfruttare e in qualche maniera cambiare il paradigma dell'intervento dell'uomo sulla natura. Il professor Ruggero Osler insegna patologia vegetale all'Università di Udine, ha cominciato a parlare di questi temi quando era professore all'Università di Berkeley. Innanzitutto, come si è partiti con questi ragionamenti? Credo che le piante si stanno via via progressivamente indebolendo. Si tratta di un fatto che è cominciato, credo, con l'avvento della chimica e delle tecnologie più avanzate anche, e soprattutto è un fenomeno che dipende anche dall'intervento dell'uomo. L'uomo ha incominciato ad isolare le piante dalla natura 10.000 anni fa, per cui è una storia molto lunga. Però dopo le sue tecniche e sembravano tutte positive, mentre invece si è capito che alcuni interventi alla lunga diventavano negativi, come per esempio si è tentato all'inizio di allevare le piante e di fare la selezione clonale, la quale ha portato a una ricaduta della biodiversità in modo assoluto in campagna. Poi si è adottato la tecnica della termoterapia che ha distrutto gli endofiti, e quindi ci sono varie tecniche agronomiche che hanno indebolito l'agricoltura. Le piante si ammalano, ma sono anche capaci di dare delle risposte per quanto riguarda la guarigione e soprattutto di trasmettere alle generazioni seguenti queste guarigioni, cioè avere di nuovo piante sane. Cosa succede? Credo che sia opportuno partire da un ragionamento. Il problema grosso in agricoltura è rappresentato dalle epidemie. In questo caso si è visto che le malattie epidemiche si possono combattere molto difficilmente, per il motivo che gli agenti patogeni delle malattie epidemiche sono molto mutageni, per cui in campagna, diciamo, è veramente difficile poter disporre di piante resistenti geneticamente. Però per fortuna si è visto, credo da due secoli, si è intuito che le piante hanno anche un'altra possibilità. In altre parole, si è capito che le piante possono nascere resistenti geneticamente, ma possono anche diventarlo successivamente. Si dice, in maniera un po' aulica, in base alle loro esperienze, agli incontri che fanno, per cui le piante hanno questa capacità di assumere dall'ambiente delle resistenze che prima non avevano. Si chiamano resistenze indotte. Oggi queste resistenze indotte si conoscono molto, molto bene, molto più di una volta, perché vi sono delle dimostranze scientifiche che comprovano la base fisiologica e anche genetica di queste resistenze indotte. E come possiamo avvantaggiarci conoscendo questo? Oggi noi conosciamo molto bene appunto le basi che inducono le piante ad essere più resilienti, quindi a diventare resistenti quando non lo erano. Si tratta di riconoscere queste piante in natura e di non perderle ogni qualvolta le riscontriamo. Bisogna dire che noi abbiamo più paura del patogeno che non della malattia, e questo è un fatto molto importante da rilevare. In natura, quando vi è un'epidemia, spesso succede che l'epidemia distrugge per esempio il 98% di piante che si ammalano, ma qualcuna si salva. Ecco, questa pianta molto probabilmente non è che è un escape, che è sfuggita all'infezione o al vettore, è una pianta che si è, come dire, ribellata alla malattia ed è diventata resiliente. Questa pianta noi generalmente la perdiamo. Ogni volta che noi rifacciamo un frutteto, un vigneto o l'orto, le piante, diciamo così, che si sono salvate nel turno precedente, purtroppo vengono perse perché noi le distruggiamo e ripartiamo da capo, partendo con piante che sono sicuramente sane, ma certamente non resilienti e non selezionate dalla natura. Per cui noi continuiamo a indebolire il sistema in questo modo. Ecco, chi ne volesse sapere di più, c'è il volume Le piante immunizzate, come detto, edito dall'Università di Udine e dall'ERSA. Non tutti sono convinti che l'ambizione di arrivare al 25% di SAU bio entro il 2030 prevista dall'Unione Europea sia realistica. Le controdeduzioni di Cristina Micheloni. Non si capisce perché, però il fatto che in un documento strategico della Commissione Europea ci sia scritto nero su bianco l'ambizione di arrivare al 25% di superficie agricola utilizzata in biologico entro il 2030 ha scatenato in alcuni un'irrefrenabile necessità di esternare quanto ciò sia realistico e persino inopportuno. Evidentemente la capacità di lettura di costoro si è esaurita al numero, il 25, già che il documento strategico molto chiaramente spiega il perché di tale obiettivo e spiega e dettaglia anche che non è l'unico degli obiettivi. Infatti, ben più complesso e forse raggiungibile, è la riduzione del 50% dell'uso dei fitofarmaci pericolosi, o la riduzione del 20% dei fertilizzanti, oppure ancora la riduzione del 50% nell'uso di antimicrobici in zootecnia. Questo su tutta l'agricoltura e entro il 2030. Quindi la strategia prevede che la necessaria svolta ecologica dell'agricoltura europea si attui su tutta l'agricoltura. Ma come fare? Sempre all'attento lettore, di cui sopra, non sarà sfuggito come le 22 pagine della strategia Farm to Fork non si limitino affatto a quantificare gli obiettivi, ma diano già una prima descrizione delle leve che la Commissione intende pigiare per realizzare il tutto. Grande rilevanza al sistema della conoscenza, ricerca, investimenti in innovazione. Uso dei dati e politiche basate sui dati, formazione dei consumatori su stili di vita più sostenibili che sono anche più sani. Investimenti solo nei settori con chiara sostenibilità e politiche internazionali che evitino di spostare i danni in altri continenti e portino a una competizione sleale. Se poi si vuole leggere ancora, si può andare al piano d'azione europeo per il biologico, dove c'è bella chiara la strategia su come arrivare paese per paese al 25% di SAU almeno in biologico. Anche qui la parola chiave è strategia e non misure singole. In Italia partiamo da un quasi 16% di SAU bio, nel nostro piccolo in Friuli Venezia Giulia passare dall'attuale quasi 7 al 25 in 9 anni è difficile ma è possibile, ma bisogna partire subito con una strategia, appunto sempre strategia. Che significa? Tanto per fare un esempio, usare il PSR per sostenere le aziende bio che realmente hanno la possibilità di crescere in bio, mettere in correlazione la richiesta di prodotti biologici regionali da parte della ristorazione collettiva, che è enorme ed in crescita, con la produzione che va aggregata e dove l'aggregazione non c'è bisogna costruirla. Usare il fatto che il Friuli Venezia Giulia sia una delle principali regioni per il consumo di bio e fare in modo che quel bio si trovi in regione, come di nuovo aggregazione e tanta tanta coltura. Vendemmia manuale o meccanica? Oggi il professor Roberto Zironi elenca pregi e difetti dei due metodi che alla fin fine si equivalgono. Un'alternativa alla vendemmia manuale è fornita dalla vendemmia meccanica. Da un punto di vista economico, la vendemmia meccanica garantisce dei vantaggi in termini di tempo, di trasporto di prodotto, con una raccolta dell'uva che può prolungarsi fino a 12 ore o anche oltre se la vendemmia viene effettuata di notte. Si deve poi considerare che in certi casi è una scelta obbligata, perché quando gli appezzamenti sono molto estesi e le varietà arrivano contemporaneamente a maturazione, la tempestività di raccolta risulta essere un vantaggio da un punto di vista qualitativo. Consideriamo che un ettaro di uva richiede circa 200 ore per essere raccolta a mano, mentre con la raccolta meccanica ne richiede circa 2. La vendemmia manuale quindi ha un costo triplo, grosso modo, rispetto a quella meccanica, e quando il prezzo basso di vendita delle uve non consente delle particolari investimenti in termini economici, la vendemmia meccanica è chiaramente una scelta obbligata. Da un punto di vista del marketing si fa una notevole leva sul fatto che il vendemmiato a macchina abbia una qualità inferiore rispetto al vendemmiato a mano. Non esiste nessuna indagine che possa dimostrare questo, né da un punto di vista sensoriale né da un punto di vista della composizione chimica. E quindi è veramente vero che la vendemmia manuale è migliore rispetto alla vendemmia meccanica? Due osservazioni. Per una buona raccolta manuale bisogna avere dei vendemmiatori esperti. Quanti di questi vendemmiatori sono presenti oggi all'interno dei nostri campi? Per una buona raccolta manuale bisogna far seguire anche un trasporto in condizioni adeguate. Quante sono le condizioni in cui l'uva viene conferita in queste condizioni, o piuttosto un raccolto a mano non è ammassato e ammostato all'interno di contenitori di grandi dimensioni? Ecco quindi che, se non è possibile con la meccanica selezionare i grappoli, ci sono però dei innegabili vantaggi. La raccolta notturna permette di abbassare la temperatura delle uve e quindi di portarle in cantina in condizioni adeguate, ed è possibile trasportare in cantina grandi quantità di prodotto che possono trovare delle corsie preferenziali di vinificazione. In sintesi, la vendemmia manuale è sicuramente in condizioni ottimali ancora quella ideale, ma la vendemmia meccanica può trovare sempre più ampi spazi di diffusione nella nostra raccolta delle uve. La pacciamatura, ovvero la copertura del terreno con materiali vegetali o sintetici per impedire la crescita delle malerbe, ha tanti altri vantaggi, come ci spiega nella rubrica dell'orto Sara Bosco. La pacciamatura permette di controllare le erbe infestanti, andando a ridurre i tempi di gestione delle piantine e migliorandone lo sviluppo, in quanto prive di competitori per acqua e nutrimento. Conservare il calore del terreno, evitando dei bruschi sbalzi di temperatura che potrebbero interferire con lo sviluppo delle piantine. In questo caso, se si usa del materiale organico, è la decomposizione stessa che produrrà calore, mentre nel caso di teli di pacciamatura sarà il sole a scaldarli, in quanto sono per lo più di colore nero. È in grado anche di mantenere il terreno umido, cioè permette di avere un risparmio idrico e di tempo. Inoltre, il terreno stesso sarà più morbido e non necessiterà di ulteriori lavorazioni. Questo è possibile in quanto il materiale pacciamante va a bloccare l'evaporazione dell'acqua, trattenendola nel terreno. Inoltre permette di incrementare la sostanza organica nel caso in cui venga impiegato del materiale vegetale. Infatti la pacciamatura vegetale va a impiegare un materiale che è gratuito, di scarto e che presenta una buona traspirazione di aria e acqua. Tre costituenti migliori troviamo in questo caso la paglia e le foglie secche. Oltre a questa forma, c'è la possibilità di impiegare dei teli che possono avere diversa resistenza, dimensione, colorazione e anche composizione. Attualmente in commercio ci sono sia teli di pacciamatura in plastica, che possono essere anche impiegati più volte, e quelli biodegradabili, costituiti invece da amido di mais. Questa tecnica è ottima in alcuni periodi dell'anno, in particolare tra l'autunno e la primavera, in quanto permettono alle plantule di mantenere l'apparato radicale a una temperatura idonea alla loro sopravvivenza o al loro sviluppo in funzione del periodo. Mentre in estate le temperature potrebbero risultare troppo elevate a causa del calore che viene anche trattenuto da questi materiali. La pacciamatura perciò è ideale per tutte quelle colture che non richiedono interventi successivi alla messa a dimora in termini di movimentazione del terreno e permette di aiutare notevolmente nella gestione del nostro orto. Erano tra i prodotti della terra che più affollavano le ricette della cucina popolare. Stiamo parlando dei fagioli, con lunga tradizione anche in Friuli Venezia Giulia, come ci illustra Adriano Del Fabbro. Durante tutto l'Ottocento e fino alla metà del Novecento, il fagiolo era assai diffuso nell'alimentazione dei friulani. Le statistiche degli anni 20 del Novecento annotano un consumo di circa 15 kg per persona, oggi siamo a circa 3-3,5. Ben superiore a quello della carne di pollo, del formaggio e del pesce. Il legume era consumato sia dai ricchi che dai poveri, lo documenta bene nel suo libro Mangiare e bere friulano Giuseppina Perusini Antonini, citando le note spese ottocentesche dei conti Rabatta di Gorizia. Secondo Luigi Messedaglia, la coltivazione del fagiolo prese avvio nel Bellunese nel 1529, per poi diffondersi rapidamente nel Trevigiano e al Friuli. 11 anni dopo li troviamo citati in un contratto di locazione di terre siglato a Palazzolo dello Stella. Una menzione a parte la Perusini Antonini la dedica alla Iote, caratteristica minestra carnica confezionata con fagioli, brovada, verdure, farina di grano turco e burro con alcune varianti. Altra cosa è la jota triestina. Secondo Guglielmo Biasutti, a Forgaria vigeva ancora nel secolo XVIII e risaliva a molti secoli prima la sagra dai Cosui o dallas Huaynas. Si celebrava ogni anno la terza domenica di luglio in concomitanza con la festa della chiesa di San Lorenzo. A un precettore che nel 1792 si serviva presso un'osteria di Tolmezzo venivano serviti fagioli in insalata come raro contorno. Nel Monfalconese, nel 1844, secondo l'abate botanico Leonardo Brumati, si coltivavano almeno una decina di varietà diverse di fagiolo. Riferendosi al periodo di fine Settecento in Carnia, Carlo Dalcer riportava: «Non sappiamo quanto potesse essere la produzione di fagioli, delle patate e della frutta, ma pensiamo che quella delle patate e dei fagioli fosse discreta, in quanto essi erano alimenti di base». Lo stesso Dalcer, citando una lista di vivande di un banchetto nuziale svoltosi a Verzegnis nella prima metà dell'Ottocento, in occasione di un matrimonio, elenca: minestra di fagioli, polenta, un pezzetto di salsiccia, mezzo litro di vino per sposi e suoceri. Mentre nella sua raccolta di ricette tradizionali dell'epoca cita la zuppa di fagioli, la jota, la minestra di brovada e fagioli, la minestra di verdure selvatiche e fagioli, minestra di fagioli, minestra di fagioli con il latte e fagioli in padella. Un po' tutti pensate di essere dei maghi nel cucinare la vostra versione degli spaghetti aglio e olio. Sentite da Roberto Zottar quante sfumature può avere questa ricetta. L'estrema semplicità degli ingredienti ha reso questo piatto protagonista indiscusso delle spaghettate di mezzanotte. Si usano non solo spaghetti, ma anche linguine o vermicelli. I vermicelli alla borbonica sono infatti un altro nome di questa pasta e prevedono anche una dose generosa di prezzemolo tritato, piatto antico che viene riportato da Ippolito Cavalcanti nel testo La cucina teorico-pratica del 1837, opera, tra l'altro, dove appare per la prima volta l'abbinamento dei vermicelli con la salsa al pomodoro. Gli spaghetti aglio e olio potrebbero essere una rivisitazione in chiave povera degli spaghetti alle vongole, ricetta conosciuta anche come vermicelli alle vongole fuiute, cioè scappate, un nome splendido per indicare spaghetti al sapore di vongole ma senza pesce. Eco di tempi in cui non tutti potevano permettersi questi molluschi, e ricetta simbolo dell'arte di arrangiarsi anche in cucina, questa pasta prevedeva una base di aglio, olio, peperoncino e prezzemolo, qualche pomodorino e, dice la tradizione, sassolini raccolti in mare che, saltati in padella col resto, insaporivano di mare il condimento. La ricetta classica prevede di tritare un grosso spicchio d'aglio e del peperoncino e immergerli nell'olio freddo in una capiente padella, far scaldare per qualche minuto, poi unire il prezzemolo e qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Gli spaghetti cotti al dente vanno poi fatti saltare nella padella per creare un'emulsione. Le ricette della tradizione non andrebbero mai rivisitate, ma in questo caso facciamo un'eccezione per un primo ghiotto, ma molto più leggero, seguendo la ricetta dello chef stellato Alessandro Negrini di Milano, lo stesso della pasta ai cipollotti. Eliminate il germoglio centrale a 6 spicchi d'aglio e sbollentateli in acqua bollente, scolateli e ripetete questo processo per 4 volte, cambiando ogni volta acqua. Con un mixer ad immersione emulsionate poi l'aglio con 100 g di olio e 100 ml d'acqua. Unite prezzemolo fresco tritato e peperoncino. Cuocete 350 g di spaghetti in acqua salata, scolateli e amalgamateli bene in una terrina con la salsa. Servite questi splendidi spaghetti, cremosi e profumatissimi, completando con un pizzico di peperoncino. Buon appetito! Come stanno andando le quotazioni dei mercati agricoli ce lo racconta Amos D'Antoni. Mercato poco attivo, con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 24,50 e 24,70 euro il quintale IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 60-65, tra 17,80 e 18,20 e il frumento nuovo raccolto tra 19,80, 20,30. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 7,50 euro e il frumento di 3,30 euro al quintale. Passando ai bovini da macello, è proseguito il buon andamento delle quotazioni, con le vacche fine carriera di prima qualità che vengono pagate a peso morto tra 2,60 e 2,90 euro al chilo IVA esclusa, quelle di seconda tra 1,90 e 2,60. Mercato in movimento pure nel settore dei vitelli da ristallo, con prezzi in salita. Le quotazioni accertano che i blubelga maschi vengono pagati tra 6,30 e 6,60 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,90 e 5,40, i frisoni tra 1,60 e 1,90 e i bruni tra 1,40 e 1,60. Nel comparto suinicolo si evidenzia invece un lieve calo. I lattonzoli di 30 kg vengono quotati franco partenza a 3,42 euro al chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono pagati a 1,49 il chilo. Domanda confermata con quotazioni deboli per il montaggio 90 giorni, che viene pagato tra 6,30 euro al chilo IVA esclusa. Quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato di 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30. Infine nel settore degli avicunicoli si segnalano cenni di pesantezza, con prezzi stabili. I poli a terra vengono pagati tra 1,14 e 1,16 euro al chilo IVA esclusa, le anatre tra 2,45 e 2,49, le faraone tra 2,47 e 2,57, i tacchini maschi tra 1,41 e 1,43, i conigli oltre 2,5 kg a 1,61 e 1,67, le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 16 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. La prima decade di luglio ha visto sulla regione un'alternanza tra corrente occidentale atlantica in quota e l'anticiclone nordafricano. Ciò ha determinato sia giornate soleggiate calde che delle brevi fasi temporalesche, salvo che nella giornata del 4 che ha visto prevalere nubi e piogge. Questa perturbazione è stata particolarmente importante perché ha portato acqua laddove ce n'era particolarmente bisogno, visto che a giugno in tale zona aveva piovuto pochissimo. Di rilievo poi il caldo afoso di venerdì 9, con massime intorno ai 35-36 gradi a Trieste e sulla pianura orientale. A Trieste la temperatura media giornaliera è stata di ben 29,5 gradi, dato che la minima non è scesa sotto i 25. Passando alle previsioni, si osserva per domani la rimonta dell'anticiclone caldo, che rimarrà solo fino a martedì, quando si avvicinerà una depressione atlantica. Per lunedì è previsto bel tempo, con cielo in prevalenza sereno, salvo la possibilità di modesta nuvolosità pomeridiana sui monti, in pianura di pomeriggio caldo un po' più afoso, mentre sulla costa soffriranno venti a regime di librezza. Tra martedì e giovedì la depressione atlantica si porterà prima sulla Francia e poi verso l'Italia, richiamando forti correnti umide mediterranee. Martedì al mattino avremo cielo in genere poco nuvoloso o velato. Dal pomeriggio probabili rovesci e temporali sulle prealpi e alpi carniche, possibili però anche in pianura. Soffierà vento moderato di scirocco sulla costa da sud in quota, caldo afoso in pianura. Mercoledì evoluzione ancora incerta, più probabilmente avremo nella notte rovesci e temporali, specie a ovest. In giornata nuvolosità variabile con tempo migliore sulla costa e probabili locali temporali sui monti e in pianura. Temperature massime in calo con valori attorno ai 27 gradi. Anche giovedì il tempo rimarrà incerto con la possibilità di qualche rovescio temporale e temperature piuttosto fresche. Poi il tempo tenderà a ristabilirsi con temperature in lieve aumento, anche se in montagna sarà sempre possibile qualche temporale pomeridiano. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. A San Bonaventure si finisse di batti in planure, ovvero per il giorno di San Bonaventure, il 15 luglio, termina la raccolta del grano in pianura. Coordinamento tecnico di Daniel Apostoli, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.